il mondo greco, dall'età buia verso l'età classica. Anche se dell'epoca buia abbiamo pochissime fonti, poiché la scrittura sembra del tutto scomparsa, gli storici hanno comunque potuto capire che in questo lungo periodo avvengono importanti cambiamenti, come abbiamo già detto nelle scorse fotocopie. Intorno all'VIII secolo a.C. comincia a comparire nuovamente la scrittura. Uno dei reperti più antichi risalenti alla fine del periodo buio è proprio questa coppa che vedi nell'immagine, su cui, se aguzzi bene la vista, appare un'iscrizione. In classe abbiamo confrontato i caratteri di questa scrittura con la lineare A, che era stata la scrittura della civiltà micenea, ma non abbiamo trovato alcuna somiglianza. Abbiamo così provato a confrontarla con la scrittura di un'altra civiltà che abbiamo studiato, quella fenicia, e qui abbiamo riscontrato alcune somiglianze. Anche moltissimi altri reperti e documenti databili dopo l'VIII secolo e provenienti da varie zone della Grecia portano iscrizioni con questi caratteri. Questo dimostra che, nei lunghi secoli bui, le popolazioni nate dalla fusione dei Dori con le altre popolazioni della Grecia, gli Achei, gli Ioni, gli Eoli, hanno elaborato un nuovo sistema di scrittura, e quindi una lingua comune. Sempre dalle fonti primarie che gli storici hanno potuto tradurre e studiare, e dalle opere letterarie antiche, come ad esempio i poemi di Omero, si è capito che, oltre alla lingua e alla nuova forma di scrittura, tutte le popolazioni che hanno vissuto in Grecia nei secoli dell'epoca buia credevano negli stessi dei, quindi avevano una religione comune. Sui reperti provenienti da diverse regioni, infatti, e nei poemi omerici come l'Odissea, si trovano nominati gli stessi dei: Zeus, Era, Atena, Afrodite, Apollo, eccetera. E sempre dallo studio delle fonti scritte, che, come abbiamo detto, a partire dall'VIII secolo diventano sempre più numerose, gli storici scoprono un'altra cosa che accomuna tutte le zone della Grecia: una nuova forma di organizzazione, la polis. Durante il periodo finale dell'epoca buia, infatti, in Grecia, comincia ad esserci una ripresa economica. Le popolazioni cominciano ad adottare nuove tecniche agricole, coltivando meglio si produce più cibo, quindi il benessere e la salute delle persone migliora e così il numero della popolazione cresce. L'aumento della popolazione porta però allo spostamento di certi gruppi nelle zone più pianeggianti, sulla costa, e all'unione di piccoli villaggi in villaggi più grandi. Alcuni di questi villaggi diventano delle vere e proprie città, le polis. Analizzando gli scavi archeologici delle varie poleis, perché è plurale di polis, archeologi e scottorici scoprono che quasi tutte le poleis sono piccole, perché il territorio è montuoso e con ristrette pianure. Nella polis abitano poche persone. La polis spesso è vicino al mare. Il territorio della polis comprende la campagna e la città. Nella campagna vivono i contadini. Nella città vivono gli artigiani, i marinai, i commercianti, i professionisti come i medici e gli architetti e i nobili. Ogni città-stato ha due parti, l'acropoli e l'agorà. L'acropoli è la città alta, infatti l'acropoli si trova su una collina. Nell'acropoli ci sono la sede del governo, i templi religiosi e spesso i guerrieri. Sotto la collina c'è l'agorà, la città bassa. Nell'agorà c'è la piazza del mercato, dove si riunisce anche l'assemblea popolare per discutere i problemi della città. Molte sono anche circondate da mura. Ma se pensiamo alla città-stato che abbiamo studiato in altre civiltà, anche quella minoica e micenea, che cosa manca nella descrizione della polis che invece era presente e imponente in città come Micene, Tirinto e Cnosso? Il Palazzo Reale. Ma allora chi governa la polis? Durante il cosiddetto periodo oscuro si diffuse in Grecia una nuova forma di governo, basata su una forte alleanza tra tutti gli aristocratici, dal greco Aristos, migliore, e Kratos, dominio, governo. Erano coloro che possedevano quasi tutte le terre coltivabili, gli animali d'allevamento, i cavalli, e che potevano offrire all'esercito gli uomini meglio equipaggiati. All'origine delle polis era dunque l'aristocrazia, un gruppo ristretto a gestire il potere. Con il tempo, però, la ripresa e la crescita delle attività economiche favorirono la creazione di un nuovo gruppo sociale, composto da piccoli proprietari terrieri, da commercianti e artigiani. Era il demos, popolo in greco. Questa classe sociale, con il tempo, diventerà sempre più importante e non permetterà più all'aristocrazia di avere tutto il potere, ma vorrà partecipare alle decisioni e alla creazione delle leggi per la città. La polis, quindi, non è più la città del re, sumerica, egiziana, cretese o micenea, in cui un sovrano impone le sue decisioni alla massa dei sudditi, ma è la città dei cittadini che attraverso il voto si autogovernano. Poiché in Grecia ogni città era indipendente dalle altre, la polis può essere anche definita una città-stato.